Jasper, colui che riunì le lepri. C'era una volta un re, il cui piccolo regno era grande fino a dove i suoi occhi potevano vedere, e lui lo amava moltissimo. Il re aveva una figlia e voleva che lei si sposasse un uomo saggio e intelligente, che un giorno sarebbe diventato un buon re per il suo popolo. Quindi annunciò nel suo regno e in tutti gli altri regni che chiunque desiderasse sposare la principessa avrebbe dovuto fare due cose per il re. Primo, portare al re una collezione delle perle più belle mai viste. E due, portare a termine dei compiti che il re gli avrebbe assegnato. Presto, i figli dei nobili, i principi, i figli dei mercanti arrivarono in gran numero al palazzo. La maggior parte di loro portò una collezione delle perle più raffinate mai viste, ma nessuna di esse era in grado di soddisfare la richiesta del re. Tornarono tutti indietro dopo aver appena guardato la principessa. Presto, il numero di potenziali pretendenti diminuì e il re cominciò a preoccuparsi. Un mondo così vasto e non un buon pretendente per nostra figlia? Tutti o pomposi o sciocchi o pigri. Cosa ne sarà di nostra figlia e del nostro regno quando ce ne saremo andati? Non preoccuparti, mia cara. Ci deve essere qualcuno in questo mondo che sarà abbastanza intelligente da portare a termine i nostri compiti. Non lontano dal mare, in questo regno, viveva un pescatore con i suoi due figli, Paul e Jasper. Paul era il più grande, pigro e arrogante, mentre Jasper era intelligente e gentile e un gran lavoratore. Paul, svegliati! Non ti sei ancora alzato dal letto e Jasper ha già posato le lenze e ha preparato la barca. Padre, se pensi che io sia pigro e inutile, perché mi chiedi di fare le cose? Lasciale fare a Jasper. Quel giorno il pescatore ebbe una gran fortuna. La sua rete catturò 20 ostriche e quando le aprì scoprì con grande stupore che ognuna delle ostriche conteneva una perla bagliante come le stelle della notte. Erano sicuramente le perle più belle di tutto il mondo. Andò a casa e mostrò le perle ai suoi figli. 20 perle scintillanti come le stelle! Padre, ora che abbiamo le perle, perché non proviamo ad andare a palazzo e vedere se possiamo conquistare il cuore della principessa? Dividerò le perle equamente tra voi e poi prima Paul e poi Jasper andrete a provare. Quindi Paul partì con le sue perle la mattina dopo. Camminava nella foresta quando all'improvviso sentì una voce. Per favore, ci aiuterai? Paul si guardò intorno e poi vide una piccola formica che camminava sulla mano. Ciao, sono qui sul tuo braccio. Puoi per favore aiutarci? Gli scarabei stanno cercando con la forza di scacciarci dalla nostra casa. Dobbiamo difenderla, ma abbiamo bisogno di aiuto, altrimenti vinceranno. Aiutaci per favore. Potremmo esserti utili un giorno. Di quale aiuto può essere una formica per un uomo? Vai via! Ho cose migliori da fare che perdere tempo con i tuoi piccoli battibecchi. E Paul andò per la sua strada. Poco dopo incontrò una donna anziana. Ciao, giovane. Cosa porti con te così attentamente? Sto portando cenere. Ne vuoi un po'? Cenere? Davvero? Vabbè, ma avresti del pane? Mi sento così affamata. E ovunque tu stia andando, ti verrà sicuramente servito il pranzo. Ti ho detto che tutto ciò che porto è cenere. Ora levati dai piedi. Ho cose più importanti da fare che chiacchierare con donne anziane ficcanaso. Paul raggiunse il palazzo e mostrò le perle al re e ai suoi gioiellieri. Vostra Altezza, non ho mai visto perle più luminose in vita mia. Sembrano meravigliose, ma cos'è questo? Che cosa sta succedendo? Le perle sono appena diventate cenere. Hai osato portare perle fitte davanti al re? Come osi? Giovane, sono deluso dal fatto che un uomo come te viva nel mio regno e respiri la sua aria. Ora vattene da qui e non mostrarmi mai più la tua faccia. Vattene prima che ti metta nei sotterranei per sempre. Paul scappò dal palazzo il più velocemente possibile, raggiunse casa e si lasciò cadere a letto. Era chiaro al pescatore e a Jasper che Paul non c'era riuscito. Jasper, sembra che ora sia il tuo turno. Così, la mattina dopo, Jasper si avviò verso il palazzo. Sulla strada, mentre viaggiava nella foresta, sentì una voce. Potresti per favore aiutarci? Chi è questo? Di chi è la voce che sento? Guarda qui, sul tuo braccio! Sono il re delle formiche! Gli scarabei sono venuti per portar via la nostra casa in cui abbiamo vissuto per anni e stiamo combattendo con loro per difenderla. Ma ieri abbiamo subito così tante perdite che non saremo in grado di sconfiggerli senza aiuto. Per favore, ci aiuterai? Beh, portare via la casa di qualcuno non è giusto. Certo, vi aiuterò. Portami dal re scarabeo. Oh, re degli scarabei! Come puoi vedere, io sono molto più grande di te e la mia forza è di gran lunga superiore. Con un colpo del mio stivale posso eliminare metà del tuo esercito. Ora, il re delle formiche è mio amico e quello che stai facendo a lui e alla sua gente è sbagliato. Quindi, vuoi che usi il mio stivale o lascerai le formiche da sole e mai, mai più le ferirai? Promettiamo di lasciare in pace le formiche. Altezza, re delle formiche, io vivo in una capanna vicino al mare. Se gli scarabei ti disturberanno di nuovo, manda qualcuno a casa mia e io ti proteggerò. Lo prometto. Non sarà necessario. Truppa, ritirata. Grazie mille per il tuo aiuto. Nessun problema. Dopotutto, a nessuno dovrebbe essere permesso di trattare qualcuno ingiustamente. Come segno di apprezzamento per il tuo aiuto, grande Jasper, ti do la mia solenne parola che ogni volta che avrai bisogno del mio aiuto, tutto ciò che dovrai fare sarà di chiamare re delle formiche. E io e la mia gente arriveremo. Possiamo raggiungere qualsiasi posto, qualsiasi. Grazie, Altezza. Lo ricorderò sempre. Jasper andò per la sua strada e poco dopo incontrò la vecchia signora. Ciao, giovane! Ciao, mia signora! Una bella giornata, vero? Che cosa porti con te così attentamente? Quelle sono le perle per il re. Sto andando a palazzo per incontrarlo e vedere se riesco a conquistare il cuore della principessa. Dare al re le perle va bene, ma superare i compiti sarà difficile. Hai del pane con te? Sono piuttosto affamata e ti verrà offerto un ottimo pasto a palazzo. Certamente, la città non è lontana. Per favore, prendi. Buona giornata. Prendi questo. Cambio della tua gentilezza, prendi questo fischietto. Potrebbe non sembrare molto in questo momento, ma quando ci soffrirai dentro, tutto ciò che desideri ti verrà dato. Ah, è un regalo davvero straordinario. Mia signora, grazie. Presto Jasper raggiunse il palazzo e presentò le perle al re. I gioiellieri e i cortigiani ne furono felici. Non ho mai visto perle come queste prima d'ora. Ad ogni momento che passa, la loro lucentezza sembra solo aumentare, Altezza. Sì, sono meravigliose. Dove le hai prese, giovane? Mio padre ha catturato le ostriche nella rete da pesca, sire. Rete da pesca? Tuo padre è allora pescatore? Oh, sì, Altezza, è un pescatore. Nutre questo regno con il pesce che pesca. Mio padre lavora sodo e sono orgoglioso di lui. Assolutamente, giovanotto. Tuo padre sta facendo un ottimo lavoro. Bene, riposati adesso e domani inizieremo con i tuoi compiti. Quindi, il giorno dopo, il re chiamò Jasper e lo portò in un granaio dove giaceva un enorme cumulo di grano misto. Come puoi vedere, 5 tipi di grano sono stati mescolati in questo mucchio. Se riesci a separare tutto in 5 cumuli entro l'ora prima del tramonto, domani passerai al tuo prossimo compito. Ma se anche un solo chicco di grano è nella pila sbagliata, dovrai andare a casa. Come dice, sire, farò del mio meglio. Così il re chiuse Jasper nel granaio, in modo che nessuno potesse andare ad aiutarlo, e lo lasciò solo per completare l'impossibile compito. Jasper ci provò per un'ora, ma presto si rese conto che il compito era troppo lungo per essere completato entro il tempo assegnato. Ah, come faccio? Ogni chicco è più piccolo di una formica e devo scegliere... Aspetta un attimo, la formica... Il re delle formiche ha detto che potevo chiamarlo ogni volta che avevo bisogno di aiuto. Bene, ora è il momento. Vostra Altezza, re delle formiche... Ecco, mio amico! Dimmi, cosa possiamo fare per te? Sei venuto! Ti avevo detto che potevamo venire ovunque in qualunque momento! Jasper raccontò al re delle formiche tutto del compito impossibile. Perché non vai in quell'angolo e riposi? Io e la mia gente finiremo il lavoro in pochissimo tempo! Quindi il re delle formiche e il suo popolo finirono lo smistamento del grano in 5 cumuli ordinati, in modo tale che quando il re arrivò all'ora stabilita, rimase scioccato nel vedere che non solo Jasper aveva finito il suo compito, ma aveva anche avuto il tempo per fare un pisolino. Jasper, come hai fatto a separare tutto il grano? Sei stato davvero bravo, ma domani avrai ancora un altro compito. Il giorno dopo, il re chiamò Jasper in un prato. Jasper, ho fatto catturare i miei cacciatori 100 lepri apposta per questo compito. Dovrai prenderti cura di loro. Pascoleranno nel prato tutto il giorno. E la sera, un'ora prima del tramonto, dovrai tornare al palazzo con tutte loro. Se ne mancherà una soltanto... Avrai fallito il compito e dovrai andare a casa. Farò del mio meglio, Vostra Altezza. Jasper sapeva che il compito era impossibile. Chi potrebbe controllare 100 lepri che corrono ovunque nel prato o nella foresta? E perché sarebbero dovute tornare da Jasper invece che rimanere lontane dalle gabbie del re? Non appena furono liberate... Le lepri corsero in tutte le direzioni, nemmeno una era più visibile. Jasper aveva quasi fallito il compito, quando si mise le mani in una tasca, come era sua abitudine, e lì trovò il fischietto che la vecchia signora nella foresta gli aveva dato. Ci soffiò dentro e tutte le lepri tornarono immediatamente. Quindi, quando era tempo di andare a palazzo, usando il suo fischietto, Jasper fu in grado di portare con sé... tutte e 100 le lepri. Sono 100 lepri, sire. Non ci credo. Sei davvero intelligente. Hai svolto compiti impossibili. Bravo! A dire il vero, sire, non ho veramente superato i compiti da solo. Ho avuto un aiuto. Com'è possibile? Jasper raccontò al re tutto sull'aiuto del re delle formiche e sul fischietto che gli aveva dato la vecchia signora nella foresta. Vede, sire, ho avuto aiuto. Non ho compiuto tutto da solo. Bene, per me hai vinto, figliolo. Perché hai avuto aiuto solo in cambio della tua saggezza e gentilezza. Sarai un ottimo sovrano per il mio regno. Ma la principessa vuole sposarmi, sire. Sì, sei un uomo saggio, gentile e intelligente, Jasper. Ti sposerò. E così Jasper e la principessa si sposarono con grandi festeggiamenti e vissero felici e contenti.